Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi, ora sono stufo di prenderle. Tensione nel centrodestra su Fini. Incendi ancora in fiamme le colline sopra Genova, ma la situazione sta migliorando. Dopo la celebrazione di Chavez al Lido, Cacciari a Radio 24, non c'ero, i giornali potrebbero avere esagerato. La notte della pennetta all'una contro Serena Williams per approdare alla semifinale degli US Open, intervista a Nicola Pietrangeli. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione, benvenuti a questa nuova edizione del GR24. Come si dice con un'espressione forse un pochino abusata, un Berlusconi a tutto campo, quello che si è presentato oggi a Milano. A seguire il discorso del Presidente del Consiglio c'era la nostra Raffaella Calandra. Allora Raffaella, cosa ha detto Berlusconi? Allora Simone, dalla maggioranza che non fa squadra a volte ai cattocomunisti che vogliono uno stato di polizia tributaria, dalle battute sulla sua moralità alle polemiche sulla libertà di stampa, all'investitura di Formigoni per un nuovo mandato alla guida della Lombardia, fino agli affondi su varie inchieste della magistratura. Silvio Berlusconi tocca tutti i temi sensibili in agenda in questo momento e approfitta del suo intervento qui alla Salone della Tessera e alla Fiera per rispondere alla maggior parte appunto di questi temi politici e soprattutto replica alle polemiche. Ci attaccano, ha detto, come una mandria di tori inferociti, ma ha detto agli imprenditori: voi avete un torero che non ha paura di niente. Riconosce in un passaggio le tensioni in seno alla maggioranza, soprattutto con Fini, che però non ha mai nominato, ma preferisce concentrarsi sul contrattacco e fa riferimento a diverse inchieste anche della magistratura esistenti in varie procure in Italia e approfitta di un errore, di un lapsus, mentre stava elencando tutte le cose fatte del suo governo per un affondo alla centrosinistra per l'inchiesta pugliese. Sentiamo Berlusconi. In 48 ore abbiamo messo sotto una copertura 122 tangentopoli organizzate con 100 cucine, 107 posti. Tangentopoli è una cosa del passato. Vediamo perché a Bari ci è aperta un'inchiesta interessante. Mi sono stancato di prenderle soltanto. Da questo ai riferimenti a voci, a indiscrezioni, lui ha detto, di procure che da Palermo a Milano cospirano, ha detto il Presidente del Consiglio, su vecchi fatti di mafia dal 92 e 93. È pura follia, ha detto Berlusconi. Il Premier ha ancora voluto replicare alle accuse che gli vengono mosse sulla libertà di stampa. Ha detto: devo provare che questa non è una dittatura, perché i dittatori, come prima cosa, operano la censura, poi chiudono i giornali, ma qui è l'affondo di Berlusconi, la libertà di stampa è diventata libertà di calunniare. E poi ancora tantissimi temi, da quelli economici sulle necessità di avviare anche un tavolo per la defiscalizzazione degli stipendi di secondo livello a quelli di politica estera. Insomma, vi racconteremo anche gli altri dettagli dell'intervento del Premier anche nelle prossime edizioni. E grazie Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Nel frattempo, all'interno del Popolo della Libertà, nel centrodestra, resta alta la tensione sulla questione Fini dopo l'attacco che gli è stato rivolto dal direttore del giornale Feltri in un editoriale ieri, e dopo le difese che sono arrivate a Fini da parte di alcuni suoi fedelissimi. Un aggiornamento in diretta a Montecitorio con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, è proprio così, un momento di fibrillazione d'altronde interna per entrambi gli schieramenti. Partiamo dalla maggioranza, sotto la lente di ingrandimento c'è il Presidente della Camera a far discutere non sono tanto gli interventi di Fini su voto agli immigrati e caso Boffo, quanto il giudizio tagliente sulla terza carica dello Stato arrivato da Feltri e dallo stesso Umberto Bossi, giudizi soprattutto quello del direttore del giornale, dal quale Berlusconi si è ufficialmente dissociato. Il malumore però negli ex appartenenti ad Alleanza Nazionale resta. Il vice capogruppo del Popolo della Libertà Roberta Bocchino arriva a dire che la famiglia Berlusconi dovrebbe ripensare alla direzione di Feltri al giornale. Solidarietà Fini arriva tra gli altri da Alemanno e dai ministri Matteoli, La Russa, Ronchi, sottotono ma con non meno problemi il Partito Democratico. A poche settimane dal congresso lo scontro tra le varie correnti non accenna a diminuire. Bersani veleggia tranquillo verso le primarie, rincorre Franceschini, in ballo la collocazione futura del principale partito di opposizione, riconquistare la sinistra o proporsi come forza che guarda al centro. Simone. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti, e abbiamo chiesto al politologo Piero Ignazzi di delineare un pochino il ruolo di Fini, capire che cosa sta facendo e a cosa mira il Presidente della Camera. Sta cercando di porsi come punto di riferimento per una destra conservatrice moderata che in Italia attualmente non c'è. La condizione perché questo progetto abbia qualche chance di successo è ovviamente un appannamento esistente della leadership di Berlusconi, altrimenti questo progetto non può andare avanti. Se e quando ci sarà questo appannamento della leadership, questo progetto potrà acquisire maggiore forza. Per adesso è certamente compresso dalla presenza e dalla forza tuttora della leadership di Berlusconi. In questo progetto politico di Gianfranco Fini c'è la questione del voto agli immigrati alle amministrative, un tema sollevato più volte dal Presidente della Camera, non solo da quando riveste questa carica, un tema sul quale la Lega è fondamentalmente contraria. A questo abbiamo dedicato il nostro sondaggio di oggi, del quale discutiamo tutte le mattine alle 8.30 in bianco e nero. Sentiamo com'è andata. Si chiamerà anche bianco-nero, ma stavolta gli ascoltatori hanno optato per il grigio. La domanda era chiara: dareste il voto alle amministrative anche agli immigrati? Tema che sta dividendo e non poco la politica. Ebbene, ha vinto il no di poco, il 54%, ma i nostri ascoltatori sostanzialmente si sono divisi. Non è sorpreso Guido Bolaffi, esperto del tema, per anni consulente del Ministero, che fa una provocazione. È evidente che il tema è centrale, è evidente che è come l'acqua pendente. Questo è un tema sul quale bisognerà riuscire a dare una risposta. Ma abbiamo dato il voto politico a degli italiani all'estero che sono da tre generazioni che non mettono piede in Italia. Siamo gli unici al mondo che facciamo questo. Beh, allora se siamo gli unici, cerchiamo di esserlo in maniera rotonda almeno, no? Domani appuntamento con Bianco Nero alle 8.30 e per votare i sondaggi basta andare su radio24.it o ilsole24ore.com. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo la lunga pagina di politica e passiamo alla cronaca per parlare degli incendi che ancora questa notte hanno colpito le alture intorno a Genova. Un aggiornamento in diretta dal capoluogo ligure, da Andrea Ferro. Andrea. Sì, buongiorno da Genova. L'ultimo bollettino dal fronte del fuoco è piuttosto rassicurante. Quasi tutti gli incendi che da ormai 48 ore assediano la città e parte della Riviera sono giudicati sotto controllo. E intanto novità importanti giungono dalle indagini. Come detto già nel precedente GR, quattro operai del cimitero di Nervi sono sospettati di aver provocato l'incendio che tra domenica e lunedì ha distrutto 250 ettari sulle pendici del Monte Moro. Secondo le indagini della forestale, infatti, il rogo sarebbe partito da un terreno vicino al cimitero dove, come raccontano gli abitanti della zona, gli operai hanno l'abitudine di bruciare le vecchie bare dove già in passato questi fuochi di pulizia erano sfuggiti al controllo di chi li aveva innescati. Nella stessa zona sabato scorso un contadino era stato denunciato per incendio colposo. Tornando alla cronaca dei roghi, dalle prime luci del giorno Canadair ed elicotteri hanno compiuto altre decine di lanci per arginare l'avanzata del fuoco, operazione decisiva dopo un'altra notte di grande paura per gli abitanti di vari quartieri cittadini lambiti per ore dalle fiamme e pronti a sgomberare le proprie case. Mentre vi parlo, ancora attivo l'incendio sul versante orientale del Monte Fascio, dove verso le 9 un canalone di fuoco si è avvicinato ad alcune frazioni sulle alture di Recco. In questa località, per una beffarda coincidenza, stasera era in programma la Sagra del Fuoco. Per motivi di sicurezza la manifestazione, tra le più antiche della Riviera, è stata annullata. Era accaduto solo in tempo di guerra. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. E grazie Andrea Ferro. Ma che caratteristiche ha questa nuova ondata di incendi? Sentiamo il generale Mariano Marsetti, responsabile dell'ufficio attività aeronautica della Protezione Civile. È anomala, nel senso che il fatto che non abbia piovuto però per tanto tempo, il fatto che in questi giorni abbiamo venti da nord, quindi l'aria è molto secca, ha ulteriormente asciugato la vegetazione. Negli anni passati, superato la fine di agosto, sostanzialmente gli incendi diminuivano in maniera sensibile. Abbiamo notato un certo slittamento verso il mese di settembre. Nei prossimi giorni probabilmente la temperatura diminuirà ancora, questo aiuterà, però riteniamo che l'andamento ci sarà anche a settembre, magari non impegnativo come questi giorni, ma continueranno anche a settembre. E siamo all'economia con gli occhi dei mercati puntati sulle materie prime. Deborah Rosciani, perché? Perché le quotazioni dell'oro sono tornate sopra la soglia psicologica dei $1,000 l'oncia per la prima volta da febbraio, per la precisione il 20 febbraio. Questo sta accadendo perché il dollaro si sta indebolendo molto da qualche seduta a questa parte. Siccome l'oro si scambia nella divisa americana, ogni fluttuazione del biglietto verde innesca reazioni anche nelle quotazioni delle materie prime. L'oro, vi ricordo, che ha superato quota $1,000 solo 5 volte. Oggi, lo scorso febbraio, come abbiamo detto, 3 volte nel marzo del 2008, mese in cui ha raggiunto il record storico di $1,032,70 l'oncia. E poi sembra anche che statisticamente settembre sia un periodo positivo per il metallo giallo, lo dice anche appunto la statistica, vi dicevo, negli ultimi 20 anni per ben 16 volte il prezzo del metallo giallo, infatti, è risultato positivo in questo mese. In ogni caso, c'è anche una tendenza in fasi di incertezza economica a riportare l'attenzione degli investitori sui beni rifugio. Questo è il bene rifugio per eccellenza, per cui è segno anche di un po' di incertezza che in questo momento sta alimentando l'atteggiamento degli investitori. Simone. E grazie Deborah per questi aggiornamenti, e noi passiamo a parlare di cinema, in realtà di cinema e politica, perché alla Mostra di Venezia, come ben sapete, ieri è stata la giornata di Hugo Chavez, in qualche misura festeggiato da qualcuno dei presenti. Buongiorno Marta Cagnola, nostra inviata a Venezia. Buongiorno Simone, quanta politica in questo Festival di Venezia. Senti Marta, prima però di parlare con te, io ho raggiunto questa mattina intorno alle 9:30 il sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che ha una domanda su questi festeggiamenti a Chavez, ha risposto così. Non ho visto niente, non c'ero, non ho visto niente, quindi non saprei cosa dirle. Nemmeno, come dire, una valutazione politica. Se non c'ero non so cosa dirle, può darsi anche che sono montature dei giornali, abituato io ai giornali, non credo più neanche se mi raccontano che 2 più 2 fa 4, quindi cioè, io non c'ero lì, non ho visto l'accoglienza, quindi quello che dicono i giornali, può darsi che non avessero altro di meglio da fare oggi che non scrivere l'accoglienza trionfale a Chavez. Hanno il drammatico problema di riempire le pagine ogni giorno e non sanno come fare. Allora Marta, una montatura dei giornali oppure no? Beh, abbiamo il drammatico problema di riempire questo minuto di radio, allora faremo una montatura anche noi. Io c'ero, quindi posso dire perlomeno quello che ho visto io. Allora, Chavez è arrivato con grandi misure di sicurezza ed è arrivato al Palazzo del Cinema. Di fronte in realtà non c'erano moltissime persone, c'erano un po' di bandiere rosse, c'era un grosso striscione. Lui però è riuscito a fare veramente un grande show, perché ha cominciato a firmare autografi, a farsi fotografare da palazzo, è rimasto 20 minuti fuori sul tappeto rosso e ha creato proprio l'evento. La cosa interessante invece è successa dentro, perché quando è arrivato Chavez, che era presente alla proiezione di South of the Border, il film di Oliver Stone dedicato a lui e agli altri presidenti dell'America Latina, c'è stata proprio un'ovazione, una standing ovation, c'erano anche i vertici della mostra, quindi insomma una sorta di endorsement a questa ovazione per Hugo Chavez, e alla fine ancora un grandissimo applauso con standing ovation, addirittura qualcuno ha cantato l'inno venezuelano, insomma, montatura o no, io questo ho visto. Bene, Marta, ti ringraziamo comunque per questa cronaca. Insomma, mi sembra che la querela almeno per il momento possa rimanere in piedi. Le 13:18 minuti e 23 secondi, nella prima parte abbiamo parlato ampiamente di politica con le parole di Silvio Berlusconi e i contrasti su Fini, e abbiamo parlato di incendi e infine dell'arrivo ieri di Chavez a Venezia. Ora ci occupiamo dell'Expo 2015. Expo del quale è stato presentato il cosiddetto master plan. Che cos'è e cosa contiene? Lo chiediamo al nostro Stefano Totoro, che ha seguito questa presentazione. Stefano. Sì, buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Il master plan è l'idea di base da cui partire per costruire il sito dove si svolgerà l'Expo 2015 dal 1 maggio al 30 ottobre. Nutrire il pianeta, energia per la vita attorno a questa tematica, voterà l'evento e 5 architetti di fama internazionale, tra cui Stefano Boeri, Richard Bardet e Jacques Herzog, hanno immaginato un'enorme piattaforma chilometrica a forma di tavola su cui si affacceranno i padiglioni degli stati partecipanti. Sarà un parco agroalimentare strutturato su una griglia di tracciati ortogonali, circondato da canali d'acqua e punteggiato da grandi architetture paesaggistiche. Questa è solo la prima tappa dell'Expo 2015, ha detto l'amministratore delegato Lucio Stanca, e da domani inizierà il grande lavoro in vista dell'evento che aspetta circa 29 milioni di visitatori. Per il momento è tutto. Grazie Stefano Totolo per questi aggiornamenti. Noi adesso ci spostiamo da Milano al sud, in Sicilia, perché oggi un'inchiesta del Giornale di Sicilia denuncia la riattivazione dei contributi a pioggia ad enti e associazioni. Ma il presidente Lombardo, ai microfoni di Radio 24, si difende e passa il contrattacco. E la vicenda rivela le tensioni politiche che ormai da mesi agitano il centrodestra nell'isola. Disinformazione pura, condita da incompetenza e da strumentalità. Raffaele Lombardo risponde così quando gli si chiede della denuncia del Giornale di Sicilia. L'accusa è pesante. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano palermitano, la giunta siciliana ha riattivato in questi giorni i contributi a circa 130 sigle di diverso tipo per un totale di 56 milioni. Eppure le erogazioni erano state bloccate dal commissario del governo dopo che nell'ultima seduta notturna sul bilancio l'assemblea regionale aveva inserito un centinaio di associazioni e 21,4 milioni in più rispetto al 2008 in barba al rigore. Ora però la giunta ha riaperto i rubinetti per i benefici del 2008 grazie al ritorno in campo della tabella dell'anno scorso, la famosa tabella H, ma il presidente siciliano corregge. Abbiamo detto di questa tabella H intendiamo salvare soltanto alcune voci, quindi non i 51 milioni ma una parte di questi, decurtati del 12%. Quanto all'accusa di voler far rientrare dalla finestra anche i beneficiari aggiunti nella famosa notte dall'assemblea regionale, Lombardo è perentorio. 21 milioni aggiuntivi non ci sono, grazie a Dio, perché l'impugnativa da parte del commissario dello Stato impedisce l'aumento della cifra dei contributi. Il presidente siciliano anzi ribalta l'accusa. Chi lo attacca, a partire dall'UDC e da una parte del PDL siciliano che guarda al partito del suo predecessore Cuffaro, è stato colpevole di una politica di sperperi e ora lancia accuse senza fondamento per frenare le riforme. Ecco perché, aggiunge, alla festa del PD aveva detto che in Sicilia si prepara il dopo Berlusconi. C'è una contiguità tra l'UDC, che è ostile a Berlusconi, e un pezzo di PDL, quello che è ostile a me. Non c'è dubbio che è questo pezzo di PDL che guarda al dopo Berlusconi, non certo quella che fa capo a Micichè. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E da vicende che incrociano la politica e l'economia passiamo a vicende di economia vera e propria, nella fattispecie il bilancio dell'industria metalmeccanica di questo paese. La nostra Alessandra Schepisi ha seguito la presentazione del bilancio trimestrale tradizionale di Federmeccanica. Che cosa è emerso, Alessandra? Sì, buongiorno, è ancora molto negativa la situazione nel comparto metalmeccanico, la caduta si attenua ma non si vede il punto di svolta, questa l'istantanea nell'indagine del secondo trimestre 2009, crolla l'export del 18,5%, crolla la produzione del 32% rispetto allo stesso trimestre del 2008. Per il futuro non si escludono ulteriori rallentamenti, anche se il fondo, dice il vicepresidente Miotto, probabilmente è stato toccato, e questa è la cornice all'interno della quale dopodomani si riapre la trattativa per il rinnovo del contratto con i metalmeccanici. Il tavolo è aperto a tutti, dice Miotto, anche alla FIOM. Mi auguro che si trovi una soluzione che vada bene a tutti nel rispetto delle regole. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Passiamo all'estero, apriamo la pagina estera con un attentato di questa mattina in Afghanistan. I talebani lo hanno rivendicato all'aeroporto di Kabul, attentato che ha fatto due vittime civili e alcuni feriti. I talebani hanno rivendicato l'attentato contro la principale base militare dell'aeroporto di Kabul, usata per la logistica dalle forze NATO. Nel mirino c'erano le forze della coalizione, ma i morti sono 2 civili. Tra i feriti ci sono 4 militari, un belga e 3 americani, mentre nessun italiano è rimasto coinvolto, come ha assicurato un portavoce del nostro contingente. La modalità è la stessa usata nella maggior parte degli attentati, un cosiddetto kamikaze alla guida di un'autobomba che viene fatta esplodere nelle vicinanze dell'obiettivo. Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, ha precisato che l'auto, una 4x4, era carica di 500 kg di esplosivo. Poi ha esagerato, come comunemente fanno i talebani nelle loro rivendicazioni, i danni e il numero delle vittime, dicendo che 3 veicoli militari americani sono stati distrutti e 25 americani sono stati uccisi. Lo stesso aeroporto era stato in passato obiettivo di un attentato suicida e dei razzi lanciati dai talebani. I voli sono stati sospesi e tutte le porte di ingresso sono state chiuse. Cristina Ballotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di sport, iniziando dalla nazionale che è a Torino in queste ore, bagno di folla stamattina. Gli azzurri alla vigilia della sfida con la Bulgaria si sono allenati davanti ad oltre 2.000 tifosi. Marcello Lippi cercava una risposta al suo grido di dolore di qualche giorno fa, quando denunciò il disinteresse generale verso la nazionale lontano dai grandi eventi, e l'ha ottenuta questa mattina. Sarà stata l'aria di casa per uno che a Torino ha lavorato una decina d'anni, o il pienone di giocatori della Juventus, ben 8 tra i convocati, ma un allenamento dell'Italia, la presenza di 2.000 tifosi non si ricordava da tempo. In campo si è intravisto anche un bel pezzo della nazionale che scenderà in campo domani sera contro la Bulgaria. Per Lippi è la partita più importante dell'anno perché è decisiva per la qualificazione. Conta solo vincere, ha detto il CT, basterebbe un autogol o un colpo di testa di Buffon. Senza scomodare ancora una volta la fortuna, che in Georgia non ci ha proprio voltato le spalle, Lippi potrebbe puntare sulla coppia Gilardino-Iaquinta in attacco, con il brio di Pepe a centrocampo al posto di Pirlo, sacrificato un po' a sorpresa. In difesa si rivedrà Grosso, preferito a Criscito. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E c'è un'altra nazionale in difficoltà, quella di pallavolo, che oggi inizia in Turchia la seconda fase degli europei. 3 partite da vincere a partire da quella del pomeriggio contro l'Olanda per cercare l'approdo alle semifinali. E proprio le semifinali, ma degli Open degli Stati Uniti di tennis, sono il sogno di Flavia Pennetta. La brindisina affronterà, quando in Italia sarà l'una di notte, la numero del mondo Serena Williams nei quarti. Sentiamo il pronostico di un grande campione del passato come Nicola Pietrangeli. Non c'è dubbio che la Williams, specialmente su quei campi lì, diventa un bel, come posso dire, un bel ostacolo. Però la Pennetta in questo momento contro una giocatrice del genere non ha niente da perdere. Quindi se gioca tranquilla come sa giocare, perché sta giocando in questo momento in modo straordinario, se vince, credetemi, io non griderò al miracolo. Le dirò brava, perché secondo me la può battere. Però io spero anche che il momento che poi un giorno, secondo me, in un certo momento giocherà meno bene, ci si ricordi che ha giocato bene, perché purtroppo noi vogliamo sempre il campione del mondo, anche se non ci spetta. La Pennetta è entrata fra le prime 10 giocatrici del mondo. A questo punto bisogna sempre ricordare che essere fra i primi 10 del mondo e non d'Italia, beh, è un grande traguardo. E l'intervista era sempre del nostro Massimo Di Scienza. Si chiude così in questa edizione del GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Filippo Aureggi. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.